Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, con una telefonata di 60 secondi ho perso il mio lavoro che ha iniziato 15 anni fa. Chi le scrive è un'orlatrice artigiana a domicilio del distretto calzaturiero della provincia di Fermo. Ho lavorato per questo calzaturificio per 14 anni di notte, il sabato e nei festivi, per garantire al mio committente un lavoro curato e veloce. Il guadagno non ripagava tutte le ore di lavoro, ma lo accettavo perché dovevo pagare il lusso di poter lavorare a casa, permettendomi così di curare la mia famiglia. Nel 2009 ho risentito della crisi. Difatti la ditta mi ha dato meno lavoro, ma ci si accontenta se si è guadagnato giusto il denaro per coprire le spese confidando in un 2010 migliore. Ma il 15 gennaio arriva la doccia fredda. Un impiegato mi telefona comunicandomi che non mi avrebbero più dato il lavoro. Intendiamoci, il calzaturificio non chiude, ma darà il lavoro ai laboratori cinesi. Non contesto all'azienda la libertà di scegliere con chi lavorare, ma si può interrompere un lavoro di 15 anni con una telefonata di 60 secondi? Mi sono sentita ferita nella mia dignità di lavoratrice e di persona, e con amarezza. Ho preso atto che nessuno salvaguarderà i miei diritti, perché noi terzisti diritti non ne abbiamo. Ho preso perciò una decisione. Rinuncio all'unica cosa che mi differenzia dai cittadini immigrati. Non voterò più. Non mi recherò più alle urne per esercitare il mio diritto dovere di scegliere il mio rappresentante. Questo è l'unico modo per protestare contro un sistema che sta azzerando tutto quel patrimonio di aziende artigiane terziste che sono le custodi di saperi e capacità ormai scomparse. Non si preoccupi, direttore. Questa è una storia a lieto fine. Il giorno dopo, per pura fortuna, ho trovato un nuovo calzaturificio con il quale collaborare. Resta ferma però la mia decisione di non votare più. Non mi sento più abitante di un paese che permette una fuga di lavoro di tale proporzione. Arriverà il giorno in cui potrò chiamarmi orgogliosamente italiana? Anna. Cara Anna, innanzitutto le esprimo tutta la mia comprensione e la mia solidarietà. È vero, talvolta le imprese considerano i lavoratori come prestatori d'opera e non come persone a cui si deve rispetto e dignità. Mi lasci credere, tuttavia, che si tratti di eccezioni. Mi lasci credere che per l'impresa i lavoratori, diretti o indiretti, sono un patrimonio che va difeso e valorizzato, anche e soprattutto da un profilo umano. Senza il lavoro non esiste l'impresa, e senza le persone non esiste il lavoro. Ed il fatto che stiamo attraversando un momento di forte crisi non giustifica certo comportamenti come quelli che lei ha dovuto subire. E comunque, il fatto che la sua sia stata una vicenda a lieto fine, con un nuovo lavoro trovato il giorno dopo, le rende giustizia. Possiamo dire che l'azienda di prima non la meritava e probabilmente rimpiangerà di averla perduta. Quello che non capisco è la sua decisione di non votare in segno di protesta. Mi creda, non votare è una protesta inutile che non aiuta la società e la democrazia a crescere. Non confondiamo le scelte di qualcuno con i valori dell'intera società. La Fiat ha deciso il blocco di tutti gli stabilimenti dal 22 febbraio al 5 marzo e lo fa il giorno dopo aver annunciato lauti profitti e dividendi per gli azionisti. Tale decisione colpirà 30.000 operai che si ritroveranno con circa 300 euro di meno in busta paga. Tanti, anzi tantissimi soldi in meno per chi guadagna in media 1.200 euro mensili. Il 31 dicembre sono scaduti gli incentivi per l'acquisto di autovetture. Il governo ne ha promessi di nuovi, ma meno consistenti. Così la Casa Automobilistica di Torino ha deciso per la cassa integrazione. Un ricatto, secondo il governo. Una scelta inevitabile, secondo l'azienda di Torino. La verità è che in questa vicenda non ci sono buoni e cattivi. Ci sono due attori in commedia, governo e Fiat, che pensano entrambi a prendersi tutta la scena. Si curano dei loro affari e interessi, e poco, anzi per nulla, degli operai rimasti senza lavoro. L'azienda Fiat costituisce da sempre un'anomalia. È l'unica azienda privata in Italia che viene finanziata con i soldi dello Stato. Forte della sua funzione sociale, ha sempre chiesto e ottenuto incentivi statali, che altro non sono che un finanziamento pubblico mascherato. Morale della favola, in tutti questi anni la Fiat ha capitalizzato gli utili e risocializzato i debiti. Negli ultimi anni il mercato è profondamente cambiato, come si dice in gergo, si è globalizzato. L'unica strategia aziendale perseguita dalla Fiat per reggere l'impatto con la globalizzazione si è basata sugli incentivi statali, sulla delocalizzazione degli stabilimenti per ridurre i costi e, da ultimo, sulle fusioni con grandi aziende automobilistiche come la Chrysler. È chiara ed evidente la strategia dell'azienda automobilistica di Torino, che ormai ha a cuore testa e portafogli in America, Polonia e Brasile. Dall'altra c'è un governo che non è in grado di fornire ricette di ampio respiro. Gli incentivi statali sono la strada più facile e veloce, ma è come fornire il metadone a un tossicodipendente. Non si può continuare a fornire soldi e in cambio ottenere licenziamenti e disoccupati in più. Tanto varrebbe allora finanziare il coraggio e l'intraprendenza di tante piccole e medie imprese. Questo paese ha un disperato bisogno di una politica industriale. Ben vengano dunque anche gli investimenti pubblici, ma a fronte di investimenti veri, ricerca, formazione e occupazione. Il futuro passa da qui. Alessandro. Ma che significa abusivismo di necessità? Ognuno di noi necessita di una casa. Che facciamo allora? Ci appezziamo una fetta di terra dove vogliamo e costruiamo una casa dove meglio ci piace e come ci piace? A mio modo di vedere, chi costruisce una casa abusiva lo fa solo perché crede di essere più furbo degli altri e sa che, comunque, prima o poi, un condono arriverà. Immaginate cosa accadrebbe alle pendici del Vesuvio se il vulcano si dovesse risvegliare all'improvviso. La quasi totalità delle abitazioni di quel luogo sono abusive e verrebbero totalmente distrutte da un'eventuale eruzione. E poi, che facciamo? Piangeremo per la disgrazia? Ci diremo si poteva prevedere? Impareremo la lezione? Assolutamente no. Si continuerà a far finta di niente fino al prossimo condono o alla prossima disgrazia. A mio modo di vedere, tutto ciò che è abusivo, a partire dall'ultimo garage per arrivare al più lussuoso hotel, andrebbe demolito, ma a spese di chi lo ha costruito e non a spese dello Stato. Ma cosa volete? Siamo in Italia, il paese dei furbi. Roberto. Oggi è proprio una bella giornata per noi. Per loro, ovvero i rappresentanti e simpatizzanti dell'azienda del catastrofismo climatologico ambientale, non lo è proprio. Causa il riscaldamento globale, doveva essere un inverno mite. Quando declamano le loro profezie, immancabilmente la natura si scatena in maniera terribile pur di smentirli. Ricordo più di 10 anni fa alcuni scienziati austriaci che dissero: tra pochi anni ci sarà la neve solo al di sopra dei 2500 metri. Nei giorni successivi nevicò così tanto da seppellire un povero paese dell'Arlberg austriaco. Ci furono anche delle vittime. Quest'anno poi è stato battuto il record del freddo in Italia, meno 47 gradi. Roberto. Il blocco del traffico serve solo a far depositare le polveri PM10 sulla superficie delle strade e non a farle diminuire in quantità. Se con il blocco si incentiva la presenza della popolazione nelle strade, una parte delle polveri viene respirata proprio dalle persone stesse. Il lavaggio giornaliero delle strade può aiutare la loro rimozione. D'altra parte, a Milano l'acqua non manca. Fra le iniziative per ridurre la produzione delle polveri ci sono il trasporto delle merci con mezzi elettrici all'interno della città e non con vecchi furgoni non controllati che sputano fumo nero. L'installazione di impianti a gas oppure sostituzione dei mezzi degli ambulanti, che sono autorizzati a circolare con furgoni, talvolta euro zero. La sostituzione immediata delle caldaie a gasolio con quelle a gas, tramite incentivi. Prevedere l'uso dei filtri per abbattimento delle polveri con tutte le auto diesel che ne sono sprovviste. La riduzione del riscaldamento nei negozi delle grosse catene. Spesso i negozi hanno le porte spalancate anche quando la temperatura esterna è sotto zero. Infine, controlli, controlli, controlli per i mezzi e per i negozi sopracitati, perché siano costretti a rispettare le regole. Gianluca. Sono un fortissimo detrattore di Berlusconi. Non lo vorrei come presidente del Consiglio e vorrei che non fosse a Palazzo Chigi. Ma questa faccenda della D'Addario mi suscita molti punti interrogativi. Anche se all'inizio le ho dato molto credito, si trattava di una faccenda che secondo me era gravissima. Se si dovesse però scoprire che tutto questo era un complotto, povera Italia, e che delusione sarebbe scoprire che si ricorre alle menzogne come unico strumento di lotta politica. Ai noi, Ernesto. Ma perché io per mandare una fattura a un cliente devo raccogliere il consenso per il trattamento dei dati sensibili? E invece un giornale qualsiasi può scrivere della vita privata delle persone senza incorrere in nessun problema. Ricordo che prostituirsi non è reato, come non lo è andare con le prostitute. Saluti, Guglielmo. Caro direttore, si avvicinano le elezioni regionali e il dibattito politico, meglio dire la polemica politica, incomincia a concentrarsi su questo evento. La sanità è al centro dell'amministrazione delle regioni e la polemica cade spesso su chi ha sviluppato le politiche migliori nel settore. Questo sia come governo centrale che come amministrazione regionale. Vivo in una regione come la Lombardia, dove la sanità ha sempre avuto punte di eccellenza. Come dire che Formigoni ha comunque ereditato un buon servizio sanitario. Non so giudicare se in Lombardia ci sia la sanità migliore per il cittadino, ovvero se qui il cittadino goda della migliore assistenza sanitaria. Mi piacerebbe allora approfondire un dato. Secondo il ministro Castelli, la sanità lombarda è la migliore d'Italia ed è quella con il più basso costo pro capite, 1.500 euro l'anno. La Bindi, tuttavia, afferma che questo dato sottostima il costo della sanità. Alla cifra di bilancio va aggiunta la quota che il cittadino paga di tasca propria. Questo significa che la regione Lombardia non eroga tutti i servizi sanitari che forniscono le altre regioni, pure virtuose in termini di bilancio. Penso che la Bindi, che però non ha quantificato il dato, abbia ragione. Credo tuttavia che il costo aggiuntivo che sostiene il cittadino lombardo possa essere verificato dai ticket, ad esempio, o dal ricorso al pagamento di alcune prestazioni, come quella odontoiatrica, o dal carico familiare della non autosufficienza, eccetera. Con la dichiarazione dei redditi, le spese sanitarie sono rimborsate al 20%. L'ammontare delle spese sanitarie che il lombardo sostiene privatamente può essere quindi dedotto dall'ammontare che lo Stato rimborsa attualmente. Franco, Bergamo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.